La liturgia si vale piuttosto come di tipo fondamentale della preghiera comune della forma drammatica. Essa divide i partecipanti in due cori e fa sì che la preghiera si dispieghi in un movimento di dialogo. Ciò attira la massa nella corrente e ve la mantiene poiché ciascuno è obbligato a tener dietro perlomeno con una certa attenzione. Ognuno sa che dipende da lui il procedere della comune recitazione della preghiera. Con ciò la liturgia accenna a una legge fondamentale del movimento dell'anima, che non può essere trascurata impunemente. Per quanto siano giustificate anche le forme di preghiera puramente responsoriali, la forma fondamentale della preghiera in comune è quella che si svolge drammaticamente. Questo ci insegna la Lex Orandi. È il problema oggi tanto sentito del come riguadagnare alla vita ecclesiale gli uomini adulti, e in strettissima relazione con quanto stiamo dicendo, poiché proprio l'uomo esige movimento che vitalmente progredisca, attiva partecipazione. Ma la massa fluente di questo movimento di anime richiede una forma, una disciplina. Ci deve essere un direttore che fissi il principio, le parti e la fine e così organizzi anche esteriormente l'intero svolgimento dell'azione. Ed egli la deve anche ordinare interiormente, così deve suggerire il pensiero direttivo, assumersi personalmente i brani più difficili affinché essi risultino espressi con sufficiente cura, dare un'espressione sintetica al sentimento comune in certi momenti culminanti della preghiera, procurare soste di riposo mediante intermezzi di meditazione o letture e così via. Questo è il compito del direttore del coro che deve aver ricevuto nella liturgia una formazione accurata e graduale. Fu detto più sopra come nella liturgia si dispieghi una vita di sentimento sempre vigorosa e ricca. Lo stesso si può dire delle due potenze fondamentali dell'esistenza umana, della natura e della cultura. Nella liturgia la voce della natura parla con forza. Basta solo leggere i salmi dove l'uomo intero emerge così com'è, senza attenuazioni. Qui l'anima si mostra coraggiosa e timida, lieta e triste, piena di nobili slanci, ma anche non ignara di conflitti interiori e di colpe, zelante per ogni cosa buona e ancora spossata e abbattuta. Oppure consideriamo le lezioni tolte dall'Antico Testamento. Non una figura d'uomo riveduta e corretta, da cui siano stati cancellati prudentemente i tratti sconcertanti e men belli, bensì l'uomo qual è. D'altra parte, non meno ricco è il tesoro di cultura nella liturgia. Vi si avverte il lavoro di più secoli che vi hanno sedimentato quanto di meglio avevano. Riccamente elaborata la parola, riccamente sviluppato il mondo dei pensieri e dei concetti. Suggestivamente combinate le forme della composizione, a cominciare dai corti versetti e dalla fine membratura degli oremus, fino all'artistica costruzione della giornata liturgica nell'ufficio, oppure della Santa Messa, il tutto culminante nell'opus complessivo dell'anno ecclesiastico. Forme drammatiche, epiche, liriche si combinano tra loro e tra loro reagiscono. Lo stile delle singole parti varia di continuo, adeguandosi allo specifico contenuto. Si ha così lo stile semplice e chiaro dell'ufficio proprio del tempo, quello denso di misteri dei giorni della Madonna, le officiature suggestivamente delicate delle vergini martiri del cristianesimo primitivo. A questo punto si aggiungono la ricchezza degli atteggiamenti e dei gesti liturgici, i vasi, gli arredi, gli utensili, i paramenti, le opere dell'architettura, della scultura, della pittura, il canto e l'organo. In tutto ciò si nasconde un insegnamento assai importante per la vita spirituale. La religione si serve della cultura. Con questo termine noi intendiamo il complesso di ciò che di buono e di significativo l'umanità ci ha procurato, creando, dando forma, ordinando. La scienza, le opere d'arte, le istituzioni sociali e via dicendo. La cultura ha qui il compito di dischiudere, mediante un continuo lavoro, il tesoro delle verità, istituzioni, atti di culto che Dio, mediante la sua rivelazione, ha trasmesso all'umanità, di svelarne il contenuto e metterlo in relazione con la vita nella sua molteplicità. La cultura non può creare nessuna religione. Le mette però a disposizione i mezzi opportuni affinché essa possa dispiegare appieno la sua efficacia benedetta. Questo è il senso dell'antico detto: filosofia ancilla teologie. La filosofia è ancella della teologia. Esso vale per l'intera cultura e a esso si è sempre attenuta la Chiesa. Così questa sapeva bene quello che faceva quando impose addirittura al generoso ordine di San Francesco, esuberante di forze e di impulsi religiosi, la cultura, la scienza, una certa distinzione nel contegno esteriore, un certo minimo di possesso, eccetera. La Chiesa ha assicurato con ciò all'ordine francescano la condizione necessaria della sua vita ulteriore, sana e feconda. L'uomo singolo o un breve periodo d'entusiasmo possono fare a meno della cultura fino a un limite anche assai notevole. Lo provano gli inizi degli ordini eremitici d'Egitto, gli inizi degli ordini mendicanti. Lo provano sante persone in ogni tempo. Ma per la media e a lungo andare, una certa misura non piccola di beni genuini della civiltà si rivela necessaria al fine di mantenere feconda la vita religiosa. Così essa si conserva vivace, limpida, generosa e aperta. Così si premunisce da quanto non è sano, dall'esagerato, dall'unilaterale che può intaccarla. La cultura e la civiltà forniscono alla vita religiosa i mezzi per esprimersi, l'aiutano a rendersi sempre più consapevoli di se stessa, a distinguere l'importante dall'insignificante, il mezzo dallo scopo, la vita dalla meta. La Chiesa ha sempre condannato ogni tentativo di intaccare la legittimità della scienza, dell'arte o della proprietà e simili. La stessa Chiesa che rivela tanto energicamente l'unum necessarium e nella dottrina dei consigli evangelici insegna con la più grande insistenza che si deve essere pronti a sacrificare per la salute eterna, dunque per il bene religioso, ogni cosa, ha pure voluto che la vita religiosa fosse nutrita sempre del sale preservatore di una cultura autentica e nobile. Allo stesso modo, la vita spirituale ha bisogno delle basi di una natura sana e vigorosa. La grazia presuppone la natura. Quel che pensa a questo riguardo, la Chiesa l'ha detto chiaramente nelle lotte gigantesche contro l'agnosi e il manicheismo, contro catari e albigesi, contro i giansenisti e tutte le specie di fanatici. E questo lo ha fatto quella stessa Chiesa che così potentemente contro Pelagio e Celestino, contro Gioviniano e Delvidio e contro ogni esagerata esaltazione della natura ha richiamato alla grazia e al soprannaturale. E ha riaffermato che il cristiano deve vincere la natura. Il difetto di una ricca e nobile formazione culturale condannerebbe la vita religiosa all'irrigidimento e alla grettezza. Se essa perdesse il fondo di una sana natura, dovrebbe cadere nella sdolcinatura, nell'insincerità, nell'innaturalezza, nella sterilità. E se si trascurano i valori culturali della vita di preghiera, ecco il pensiero impoverirsi. La lingua imbarbarire, le immagini irrigidirsi, i sentimenti farsi grossolani e monotoni, come pure quando la natura non la irrora più di sangue vivo e vigoroso, il pensiero si svuota, il sentimento si impoverisce diventando artificioso, le similitudini e le metafore impallidiscono. Le due cose unite, il difetto di vigore naturale e la mancanza di schietta cultura, costituiscono ciò che si deve chiamare barbarie. La perfetta antitesi di quella scientia vocis che si manifesta nella preghiera liturgica e dalla stessa liturgia è celebrata come lo splendido privilegio del Santo Spirito Creatore. Sana, semplice, vigorosa deve essere dunque la vita di preghiera. Deve mantenere i contatti con la realtà e non temere di chiamare le cose col loro nome. L'uomo deve ritrovare nella preghiera tutta la sua vita. D'altra parte, essa deve essere ricca di pensieri e di immagini efficaci, deve possedere una espressione matura e colta, ma insieme ben dominata, riuscir chiara e trasparente nella composizione, comprensibile all'uomo semplice, ricca di eccitamenti e di linfa vivificante per la persona colta. Deve essere compenetrata di una cultura che in nessun modo riesca importuna, bensì consista innanzitutto nell'ampiezza dell'orizzonte intellettuale, nell'interiore misura del pensiero e della dinamica della volontà e del sentimento.